Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Una voce unica, un carisma eccezionale. Neil Diamond è un'icona del pop americano. La cosa che più sorprende guardando la sua carriera è che la sua musica e la sua vita da songwriter abbiano due volti. Da un lato, Neil Diamond appartiene a quella categoria di cantautori che si sono formati scrivendo canzoni su richiesta, concepite per ottenere il più largo successo commerciale possibile. Dall'altro, il cantante newyorkese ha saputo costruirsi all'interno di questa adesione al mainstream una sua posizione autoriale precisa, fatta di sincerità, emozioni e sentimenti raccontati in musica con grandissima forza e passione. Oh yes. La genesi di ogni album per me diventa una collezione di piccole nascite e morti. Si può dire che io vivo e muoio un po' con ogni canzone. Le morti nascono spesso dalla mia stessa diffidenza. Idee che non prendono forma, accordi che stridono e melodie un po' randagie. Le nascite sono invece la magia, lo slancio che libera la canzone dalla mia persona, portando le idee alla vita. New York, primi anni 60. Broadway, la via degli artisti, dei teatri, dello spettacolo. Una lunga arteria che taglia in due, in diagonale, in modo sfrontatamente disordinato, il cuore di Manhattan. Cominciamo a passeggiare partendo da Lower Manhattan verso Uptown. È una città in fermento che sta imparando a far coesistere in un perfetto equilibrio la sua anima di tendenza con un cuore alternativo. Ci sono sia i giovani pubblicitari, elegantissimi, diretti verso la vicina Madison Avenue, sia i giovani alla ricerca di abbigliamento stravagante. Passiamo per Soho, che proprio in quegli anni sta diventando un quartiere alla moda, ricco di negozi di abbigliamento underground, come il rinomato Yellow Red Bastard. Proseguendo verso Uptown, arriviamo nel celebre e mondano Village, poco a nord di Times Square, dove ci imbattiamo in un edificio sontuoso e storico, il Brill Building, celebre tempio newyorkese all'interno del quale si produce musica con ritmi da catena di montaggio. La Landmarks Preservation Commission di New York, una sorta di agenzia che stabilisce quali edifici debbano essere considerati monumenti da preservare, ha inserito il Brill Building, la casa della musica della Grande Mela, nell'elenco degli edifici storici meritevoli di tutela e conservazione. La palazzina, che sorge al numero 1619 di Broadway, all'incrocio con la 49esima, rappresenta in effetti un pezzo glorioso e indimenticabile di storia della canzone americana. Edificato nel 1931, il nome deriva da quello dei fratelli Brill, titolari di un negozio di abbigliamento e poi proprietari dello stabile. Già da prima della Seconda Guerra Mondiale, il Brill Building ospita autori ed editori musicali, giocando un ruolo cruciale nell'evoluzione della cosiddetta industria musicale. Poi, a partire dalla fine degli anni 50, l'edificio e i suoi dintorni diventano una vera e propria fabbrica di successi per musicisti, come, per citare qualche nome, Burt Bacharach, George Gershwin, Jeff Barry o Carole King. La nostra passeggiata ci ha portato proprio ai suoi piedi. È un tipico edificio newyorkese in stile Art Deco, alto 11 piani, e con un sontuoso portone con decorazioni in oro, pronto ad accogliere i visitatori. All'interno si trovano produttori di etichette diverse, studi di registrazione, uffici. Si fanno audizioni, si firmano contratti, si decidono in poche parole le sorti del music business americano. Qui, nel giorno della nostra passeggiata primaverile in una sala d'attesa, si appresta a fare un colloquio decisivo il nostro personaggio, un giovanissimo Neil Diamond. Neil Diamond è newyorkese dalla testa ai piedi. È nato e cresciuto a Brooklyn, assorbendo tutte le ricche contraddizioni di uno dei quartieri più eterogenei di New York. Si dice abbia ricevuto la sua prima chitarra come regalo per il suo 16° compleanno, un regalo che gli ha cambiato la vita, se è vero che dopo aver preso qualche lezione Neil ha avuto subito chiaro che il suo futuro sarebbe stato intorno a quelle 6 corde. Ricordo molto bene la sensazione che ho provato la prima volta che ho imbracciato una chitarra. È stata una sorta di illuminazione, come se avessi capito per la prima volta, nonostante la mia giovane età, realmente chi fossi. È diventato tutto improvvisamente chiaro. I primi passi nel mondo della musica Neil Diamond li muove insieme a un compagno di scuola, Jack Parker, con un duo chiamato appunto Neil and Jack. Cominciano a esibirsi in numerosi locali newyorkesi con un repertorio che tende al country e che include anche alcune grezze composizioni originali. Il pezzo più noto di questa prima fase della sua carriera è senza dubbio Blue Destiny, che entrerà a far parte anche del suo repertorio più maturo. Next thing I know, she's running with somebody new. I ask this heart every day, can there be some other way? What can I do to change my blue destiny? L'inizio della carriera di Neil è caratterizzato da fortune alterne. Qualche piccolo successo, certo, come Blue Destiny, i primi contratti per qualche casa discografica, ma anche la frustrazione di non riuscire a emergere in un contesto musicale come quello newyorkese, che sembra orientato per lo più verso una musica colta e tendente all'underground. Io avevo capito che il mio futuro sarebbe stato nella musica. Difatti avevo lasciato l'università per inseguire totalmente il mio sogno. Nel mio caso però c'è stata una discreta gavetta da fare prima di poter parlare di successo. In ogni caso, Diamond e Parker arrivano a incidere il loro primo pezzo per un'etichetta minore chiamata Duo. Si intitola What I Will Do, un pezzo dichiaratamente ispirato ai maggiori successi dei celebri Everly Brothers, sospeso tra country e rock and roll e con grande uso di armonizzazioni vocali. Dum dum me do we do we dum dum me do we do what? Dum dum me do we do we dum dum me do we do we dum dum me do we do what? Il pezzo commercialmente non va bene, così come un successivo tentativo solista di Neil, At Night, che vede la luce nel 1963 ed è un disastro. La grande occasione per Diamond arriva nel 1965, quando viene convocato per un colloquio nel prestigioso Brill Building da uno dei grandi produttori dell'industria musicale newyorkese, Don Kirshner, il primo magnifico destino di Neil Diamond. Kirshner è uno dei produttori top del Brill Building, titolare della Holden Music e della Cold Gems Records, etichette legate alla Columbia. Dall'inizio degli anni 60, Kirshner si costruisce un nome che in breve finisce in cima alla lista dei potenti dell'industria musicale americana. Incuriosito da alcuni lavori di Neil Diamond, decide di contattarlo. Mr. Diamond. Ho iniziato la mia frequentazione del Brill Building grazie a Don Kirshner. Grazie a Don ho cominciato a comporre canzoni in serie, una dopo l'altra, per diversi artisti che erano sotto contratto con lui, il che mi ha permesso di crearmi una grande professionalità, di costruirmi un nome nell'ambiente. Da quel colloquio Diamond porta a casa un ingaggio come autore per gli artisti della scuderia di Kirshner. È una gavetta di eccezionale valore se si pensa che il meccanismo con cui funziona il Brill Building è quello della catena di montaggio. Tra i vari pezzi che Diamond scrive per artisti prodotti da Kirshner, spicca un brano che viene inciso da una giovane band chiamata The Monkees, 4 ragazzi che affermavano pubblicamente di volere essere i Beatles. Nel 1966 Diamond riarrangia e riscrive per loro un pezzo che aveva eseguito qualche volta dal vivo nelle sue serate newyorkesi. I'm a Believer è il titolo del pezzo che ottiene un successo straordinario. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. I'm a Believer ha un successo planetario. Ne esiste anche una cover in italiano a firma di Caterina Caselli intitolata Sono bugiarda. Se guardo te, io sono bugiarda. L'amore c'è, è dentro di me. Neil Sedaka, Carole King sono solo alcuni nomi dei cantanti che beneficiano dei pezzi di Diamond, che scrive senza sosta. Il sistema quasi fordista del Brill Building, però, lascia spazio alla meritocrazia e le indubbie qualità di Diamond non passano inosservate. Il successo ottenuto dal singolo dei The Monkees, in particolare, porta Neil Diamond a conoscere un altro giovane e brillante produttore che si sta affermando nell'ambiente. Si chiama Jeff Berry. È intraprendente, ambizioso, sempre alla ricerca di giovani talenti, ed è solito lavorare in coppia con un'altra produttrice molto attenta alle promesse musicali, Ellie Greenwich. Quella di Jeff Berry e di Ellie Greenwich è una tipica storia da Brill Building. Si conoscono qui, iniziano a lavorare insieme, si innamorano, si sposano, si amano, si lasciano. Tutto quasi fra i corridoi e gli uffici del più mainstream degli edifici newyorkesi. I due dimostrano un talento fuori dal comune nel saper interpretare i gusti delle giovani generazioni, nel lanciare cantanti in grado di diventare tormentoni fra i teenager. Uno dei loro più grandi successi è Da Do Run Run di Phil Spector. Il 25 giugno del 1965, Berry e la Greenwich firmano un contratto esclusivo con Neil Diamond. Formano una casa discografica tutta loro, la Telerand Music, con Diamond come presidente, e mettono in cantiere il primo album di Neil. Jeff Berry e Ellie Greenwich hanno fortemente creduto in me quando ero ancora semplicemente un autore di discreto successo al Brill Building. Il mio album d'esordio è stato totalmente una loro intuizione, una felice intuizione, che mi ha permesso di fare i primi passi per diventare quello che sono. È così che nel luglio del 66 vede la luce il primo singolo di Neil Diamond, Solitary Man. Me and Sue, but I do. Don't know that I will, but until I can find me a girl to stay and won't play games behind me, but I'll be what I am, a solitary. Il singolo di Neil va a ruba e ovviamente segue l'album, che si intitola The Feel of Neil Diamond. Arriva sugli scaffali dei negozi confezionato con una copertina estremamente semplice, il cui aspetto è curato direttamente da Neil. In alto, scritta verde su fondo blu, una foto del cantante al centro con aria misteriosa, una colonna rossa con i titoli delle canzoni a destra, nient'altro. Grande semplicità per un disco che finalmente cambia la carriera del cantautore americano. Un aspetto decisivo fu che l'album venne coprodotto dalla Bang Records, che aveva distribuito anche il mio primo singolo. E questo assicurò una produzione di altissimo livello, grande visibilità, perché Bert Burns, proprietario dell'etichetta, aveva sotto contratto i giovani artisti più caldi e considerati dell'epoca. L'album d'esordio di Diamond fonde perfettamente elementi country, rock e soul, lasciando emergere il grande talento melodico del cantante. Un album che si dimostra decisamente avanti con i tempi e riesce a competere con le innovazioni proposte da altri cantautori dell'epoca. La critica fa notare come il suo gentile canto baritonale infonda sensazioni delicate e introspettive che solo Paul Simon poteva eguagliare in quegli anni. La sua maturità viene confermata dal pezzo migliore dell'album, Sherry Sherry. Un ritornello esuberante, battiti di mano, il tamburino, la chitarra acustica, un trascinante riff di chitarra, un break del piano con tanto di cori gospel. Varietà e adrenalina, le costanti della lunga carriera che intraprenderà Neil Diamond. Baby loves me, yes, yes she does. All the girls out of sight, yeah. Said she loves me, yes, yes she does. I magnifici destini. The Bang Years. Vengono così chiamati i due anni che vedono Neil Diamond, sotto contratto con la Bang Records, sfornare successi uno dietro l'altro davvero re del Brill Building. Girl, You'll Be a Woman Soon è forse il pezzo che ottiene i riscontri maggiori, Coverizzato decine di volte, finisce in tempi decisamente più recenti anche in una scena memorabile di Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Questo è un test sulla moralità di una persona, se riesce o no a continuare ad essere leale. Perché essere leali è molto importante. Poi, nel 1968, Bert Burns, titolare della Bang Records, muore prematuramente a 38 anni. Il quartetto che aveva costruito i grandi successi di quel biennio, che oltre a Burns e Diamond comprendeva anche Jeff Barry ed Ellie Greenwich, si sfalda. Neil prende una decisione determinante: spostarsi da una costa all'altra degli States, che è come cambiare pianeta, cambiare mondo. Passare dalla raffinata mondanità della Grande Mela, con il fascino e l'eleganza un po' aristocratica del mondo del Brill Building, alle luci scintillanti di Los Angeles e di Hollywood. E lì, nella Mecca dello spettacolo, Neil Diamond sbarca nel 1968. C'è una definizione assai nota negli States, West Coast Music. Sul piano strettamente musicale è un concetto vago. Diciamo che indica tutta quella musica prodotta tra Los Angeles e la Bay Area nel corso degli anni 70. Brani e autori assai diversi tra loro sono accomunati da questo cappello, ma hanno qualcosa in comune. A ben vedere si nota una certa allegria, un clima di fondo, un sottile filo che riporta l'atmosfera un po' rarefatta che si respira nel cuore dello show business, lontana dalle fredde strade di New York. La musica che Neil Diamond produce a partire dagli anni 70 è perfettamente inserita nel genere della West Coast Music. La prima etichetta per cui Neil firma a Los Angeles è la Unilabel, con la quale produce due singoli come Sweet Caroline, che raggiunge il quarto posto delle classifiche nazionali, e Holly Holly, che si blocca al sesto. Il ritmo con cui Neil compone e incide è forse superiore a quello già folle del Brill Building. Così, nel 1969 e nel 1970 arrivano due nuovi album, Touching You, Touching Me e l'ambizioso Taproot Manuscript, che lo porta a inserire nuove contaminazioni ritmiche di provenienza africana. In quest'album c'è il primo numero uno di Neil, un brano storico che domina lungo la hit parade, Crackling Rosie. Play it now, play it now, play it now, my baby, crackling rosie, make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright, 'cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. A Los Angeles, cinema, musica, teatro, tutti gli aspetti dello show business si fondono, si mescolano in un prolifico e continuo scambio. Così per Neil Diamond arrivano le prime opportunità da attore al cinema e alla TV. Qualcuno di voi ricorderà forse una serie poliziesca americana per qualche tempo trasmessa anche da noi che si intitolava Mannix, prendendo il nome dal personaggio principale, l'investigatore Joe Mannix. 8 stagioni e grande successo negli States, tanto che molti personaggi noti dello Star System transitano in essa come guest star. Appena sbarcato a Los Angeles, anche Neil finisce in una puntata del telefilm. Nella scena Neil si esibisce in un locale cantando The Boat That I Row. All'improvviso scoppia una scazzottata tra Mannix e un cliente che stava importunando una ragazza. Neil interrompe la scazzottata e chiede a Mannix di poter finire la sua esibizione. Hey man, do you mind if I finish the set by myself? È il 1973, l'anno in cui Neil Diamond raggiunge l'apice della sua carriera, riuscendo tra l'altro nella non facile impresa di rimanervi per quasi un decennio. Neil in quell'anno firma di nuovo un contratto da ben 5 milioni di dollari in cambio di 10 album con la CBS Columbia, etichetta a cui è legato ancora oggi. Un trionfo che si spiega anche e soprattutto con la straordinaria capacità live del cantautore newyorkese. 24 agosto 1972, siamo a Los Angeles, nel prestigioso Greek Theater. C'è il tutto esaurito. Neil Diamond si deve esibire dal vivo. È la decima serata in poco più di due settimane che il cantautore si esibisce qui a Hollywood. Sono stati 10 sold out consecutivi. Ecco che Neil sale sul palco e prende il microfono. You know, it's hard to believe, but it was 35 years ago that I recorded a performance I did at the Greek Theater in Los Angeles, California. And they made a record of that performance and shipped it all over the world. It was to become maybe my most popular record ever. It was called Hot August Night. And the very first song from that show also was to gain popularity itself. And we'd like very much to do that first song for you here tonight. Neil è coinvolgente, trascinante, magnetico nei suoi movimenti e vocalmente impeccabile. La sua straordinaria abilità come performer lo porterà a esibirsi praticamente sempre, anche nei momenti meno brillanti della sua carriera, davanti a palazzetti gremiti. Quel mitico concerto al Greek Theater finisce in uno degli album tra i migliori della carriera di Diamond, Hot August Night. And the tune can be sung and the words all rhyme. Mi sento un essere umano imperfetto, molto emotivo, sempre alle prese con il tentativo di dare forma e sostanza alla mia vita. Scrivo queste piccole canzoni, le canto in uno studio di registrazione e poi di fronte ad un sacco di persone. E tutto questo per me è una terapia per riuscire a stare in pace con me stesso. Nel cinema, quelle poche volte che mi è capitato, ho trovato lo stesso tipo di emozione. Non è un caso che il decennio si chiuda emblematicamente con uno dei passaggi chiave della carriera di Diamond. Il film The Jazz Singer, remake di uno storico film di Al Jolson del 27, considerato il primo film sonoro della storia del cinema. On the boats and on the planes, they come into America, never looking back again. They come into America. Don't it seem so far away? We're traveling light today. In the eye of the storm. In the eye of the storm. Neil interpreta la parte del protagonista e si occupa della colonna sonora del film, incidendo tra l'altro uno dei suoi pezzi più celebri, America. Make our bed and we'll say our grave. Freedom's light burning warm. Come attore Diamond raccoglie pareri contrastanti. C'è chi lo apprezza, chi meno, tanto che gli viene assegnato anche l'assai poco prestigioso Razzie Award, la pernacchia d'oro per la peggior performance attoriale dell'anno. La colonna sonora del film però vende oltre 6 milioni di copie. E quasi in parallelo Neil incide anche il suo pezzo simbolo, September Morn. È l'inizio del decennio degli 80, è il punto di massimo e planetario successo per Diamond, ma è anche l'inizio di un lento e costante declino. September morning still can make me feel that way. I magnifici destini. It should have been me that's holding you instead of someone else. I needed you but never let it show. It should have been me that's loving you through all the lonely nights. abbiamo ripercorso la prima fase della carriera di Neil Diamond, quella dei grandi successi. L'inizio degli anni Ottanta è uno spartiacque netto per molti musicisti. Esplodono nuove mode, il mondo si capovolge, gli album di Neil vendono poco, anche se continuerà a riempire le arene come testimoniano i suoi frequenti album dal vivo. Nessuno dei suoi dischi successivi lascia un segno a dispetto delle collaborazioni con Burt Bacharach, con Stevie Wonder e i tentativi di svecchiare il repertorio interpretando brani di Bryan Adams e Tracy Chapman. Ma la carriera di Neil Diamond conosce un'improvvisa fioritura quando, quasi 10 anni dopo il suo ultimo grande successo, un altro magnifico destino, il super produttore Rick Rubin, già artefice di una straordinaria operazione di rivalutazione della figura di Johnny Cash, costruirà la sua resurrezione artistica. MTV ha definito Rick Rubin il produttore più importante degli ultimi 20 anni. La rivista Rolling Stone si è spinta addirittura oltre, precisando il più importante di ogni genere musicale. Di certo è quello che ha rischiato di più, come dimostrano i risultati che ha saputo ottenere e la stima di cui gode a livello mondiale. Sulla cresta dell'onda della seconda metà degli anni Ottanta, Rubin ha inizialmente indirizzato la sua attività verso gruppi heavy metal. È diventato famoso come collaboratore degli Slayer, producendo Rain in Blood e i System of a Down. Successivamente Rubin lavora anche con i Red Hot Chili Peppers, producendo il mitico Blood Sugar Sex Magic. Il grande capolavoro di Rubin è la restaurazione di Johnny Cash, che nel 1994 firma un contratto con la sua American Records. Il primo disco realizzato insieme è American Recordings, accolto trionfalmente, così i successivi 3 e i 2 album postumi American 5, 100 Highways e American 6, Ain't No Grave, annoverati tra i migliori album in assoluto del grande cantautore americano. All'inizio del decennio del 2000, Diamond incontra Rick Rubin, che lo contatta perché è seriamente interessato a lavorare con lui. I due trascorrono molto tempo insieme prima di iniziare la produzione, per conoscersi a fondo e trovare la giusta sintonia, mentre Rubin lo incoraggia a trovare l'ispirazione degli esordi. Prenditi un anno di riposo, niente concerti, niente di niente, scrivi tutto il materiale che ti passa per la testa, gli propone Rubin. La sua idea è di riportare la semplicità nella produzione del cantautore, realizzando un album che abbia al centro la voce e la chitarra di Diamond. Il risultato è straordinario. Rick mi ha portato a credere di nuovo in me stesso. Mi ha fatto tornare ad avere fede in me stesso e nella mia musica, una cosa che pensavo di aver perso per sempre. Oh Mary, oh Mary, oh Mary, oh Mary, oh Mary, oh, talking about love. No, I don't want nothing in between. Mary, oh, Mary, oh, don't tie me to words that you don't mean. Mary, oh, Mary, oh, I'm looking for something I never knew. Mary, oh, Mary, oh, Mary, you know I'm looking for you. È così che nasce 12 Songs. È forse il disco più intimo e sincero dell'intera carriera di Neil Diamond e probabilmente anche il più apprezzato dalla critica. Rubin incide anche sul tour che supporta l'album. Spinge Diamond a svecchiare gli arrangiamenti dei pezzi classici e a usare maggiormente la chitarra sul palco. Anche in questo caso il risultato è il miglior tour di Diamond dall'inizio degli anni 70. Dopo i tanti anni passati a registrare tutte queste canzoni, tutti questi album, sarebbe ragionevole dedurre che mi sono abituato a scrivere canzoni, che ho imparato, affinato tutti i metodi necessari a tal punto che potrei sfornare canzoni in serie anche mentre dormo. Eppure per me è vero l'opposto. Quest'album in particolare mi ha richiesto tanto quanto il mio primo disco, se non di più. Le canzoni sono venute direttamente dal mio cuore, come se fossero sempre state lì. Eppure niente del processo compositivo è stato semplice e immediato. And I said loud, I loved it all, and I'm not too proud. I freed my soul, just let it fly. Hell yeah, this crazy life around me, it confuses and confounds me. but it's all the life I've got until I die. Hell yeah it is. Dopo il matrimonio professionale con Rubin, nel 2012 Neil Diamond si è anche sposato per la terza volta all'età di 71 anni con Katie McNeil, di 29 anni più giovane di lui, la sua manager, nonché produttrice di un documentario sul cantautore americano. Dopo 50 anni di carriera vissuta con pienezza, Neil Diamond si ritrova ai vertici delle classifiche, felice e sereno anche sul piano personale. Il suo segreto? Non sentirsi mai sazio. Ma in verità io sono più affamato di prima. Il vuoto profondo che ho dentro di me fa anche più male di quando ero giovane. Fare musica è la mia vita, la costante senza la quale non posso vivere. È più di un desiderio, un'aspirazione, è una necessità. Money talks, but it don't sing and dance and it don't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans. Honey is sweet, but it ain't nothing next to baby's treat.